Il materiale di Tobias. La serie del salto quantico. Shaud 1. I demoni sono vostri. Con Tobias, canalizzato da Jeffrey Hoppe. Presentato al Crimson Circle il 4 agosto 2007. www.crimsoncircle.com. Traduzione di Gioia Villa. È una tale gioia per me essere qui con ognuno di voi all'inizio di questa nuova serie. Mi prendo un momento per entrare davvero in questo spazio, per venire più vicino a voi, per quanto me lo permettete. Forse mi siedo vicino a voi, sto in piedi dietro di voi, forse sono proprio in quel corpo fisico con voi. Abbiamo attraversato molti, molti anni e molte, molte vite insieme. Sediamo qui in quanto famiglia della roccia, la famiglia della stabilità, la famiglia dell'equilibrio. E ora la famiglia che ispira consapevolezza sulla terra. Mi prendo questo momento per percepire il momento e odorare e sentire ognuno di voi, sia che siate seduti qui oggi sulla cima di questa montagna, sia che vi troviate in un'altra parte del mondo, oggi possiamo riunire di nuovo le nostre energie insieme. Oggi faremo un altro passo avanti, attraverseremo un altro strato o livello che ha determinato dei blocchi, un altro strato o livello che permetterà la consapevolezza di continuare ad espandersi. Come vi ho già detto, voi siete i pionieri della nuova consapevolezza. Lo dico perché ce l'avete scritto addosso e scritto sulla vostra fronte. Quasi fosse un tatuaggio. Pioniere della consapevolezza. Oggi quindi attraverseremo un altro strato che è molto, molto spesso e molto, molto pesante. Ad una parte di questo voi credete, la maggior parte è semplicemente consapevolezza di massa, consapevolezza umana, pronta però a liberarsi al prossimo livello. Prepariamoci per l'ospite di oggi. Mentre diamo inizio a questo giorno, lentamente portiamo dentro l'energia del nostro ospite. Vi chiediamo di percepirne le energie. Non cercate di indovinarle. Percepiterle semplicemente. C'è una differenza significativa. L'indovinare avviene nella mente che cerca di recitare il ruolo di un investigatore sensitivo. Prima di tutto la mente non possiede le capacità per essere sensitiva, finge solo di esserlo. Si tratta della vostra essenza, è la vostra divinità che è davvero sensitiva, e tutto ciò che significa e che voi potete sentire e percepire. Potete essere consapevoli delle energie su molti differenti livelli e strati, non semplicemente in questa terza dimensione lineare. Così, mentre vi preparate per questa giornata, vi invito un'altra volta a fare quel respiro profondo, il respiro che rimette insieme tutto di voi, perché durante il nostro ultimo shaud abbiamo parlato di voi, di tutti i vostri aspetti, di tutte le parti e i pezzi, quelli che conoscete e molti che avete dimenticato da tempo, sono tutte parti di voi. Tutte contengono un denominatore comune di base, un componente che è simile in ognuno di voi. In ognuno, quel comune denominatore è voi, la vostra essenza, il vostro essere. Voi, La cosa interessante è che il vostro essere, la vostra essenza, non si trova seduta su una nuvola e proprio ora da qualche parte sta suonando un'arpa. Risate. Non si lascia trasportare nell'aria senza uno scopo, anche se l'avete già fatto in passato. Non sta neppure seduto in posizione da guru sulla cima di qualche montagna, meditando su ciò che accadrà. E proprio qui, ebbene sì, su una montagna, naturalmente siete proprio qui, nell'ora. Voi siete voi. Che affermazione semplice, profonda, forse suona un po' stupida se la condividete con gli altri. Voi siete voi. Sembra ovvio, ma anche qui ci sono molti livelli. Cosa è voi? Chi siete voi? Tutto fa capo ad alcune di queste domande di base. Chi siete voi? Avete esplorato questa domanda dal momento in cui avete lasciato casa. Saint Germain ne parla nella scuola di ascensione dei Dreamwalkers, coloro che camminano nei sogni. La ricerca della domanda «Chi sono io?». Ora però è arrivato il tempo di capire che voi siete voi. Voi siete voi. Voi siete tutti questi elementi, tutti questi aspetti che le vite precedenti, tutta la vostra immaginazione e i vostri vagabondaggi e i vostri sogni ad occhi aperti sono voi. Proprio adesso alcuni di voi stanno combattendo, si chiedono: ma cosa è me? Qual è la mia verità? Prima di tutto siete tutto questo. Tutto questo. Siete ognuno di questi aspetti, ognuna di queste creazioni. Siete un tale creatore che potete sedervi proprio ora ed immaginare, solo per un momento, giocate semplicemente un gioco. Immaginate di essere un essere davvero cattivo, disonesto, corrotto e detestabile. Per alcuni di voi non è difficile immaginarlo. Risate. Immaginatelo per un momento e non abbiate paura. Immaginatelo e come vedete si sta creando davvero, perché è parte di voi. E la domanda che viene da dentro e dice: mi chiedo come sarebbe essere totalmente detestabile, completamente malvagio. Come sarebbe? Io posso giocare questo gioco con voi ora, perché l'abbiamo giocato prima. Ad un certo punto, durante le nostre molte, molte vite, ve lo siete chiesto e alcuni di voi l'hanno realizzato nella realtà fisica. Altri lo hanno realizzato su altri livelli. Alcuni di voi vanno in questo grande palcoscenico nell'universo fisico definito dagli Arcturiani. Si tratta di un raggruppamento planetario ed è molto interessante andarci. È un palcoscenico eterico, come lo definireste voi, un palcoscenico angelico dove si recitano queste cose con una grande intensità e dramma. Esiste un punto energetico, un genere di portale energetico che vi permette di raggiungere questo palcoscenico eterico e recitare, con altri o da soli. Alcuni di voi possono recitare dappertutto, in qualsiasi momento. Scegliete un piccolo spazio nei livelli non fisici e recitate i vostri pensieri e desideri su quei livelli. Molti di voi recitano proprio qui, in questo corpo umano. In questa realtà ci sono conseguenze diverse rispetto a recitare da qualche altra parte, implicazioni diverse e decisamente una diversa energia. Si tratta di un tipo di energia che si percepisce come molto reale, talmente reale che tende a portarvi via. Quell'influenza, quella creazione può avere la tendenza ad entrare e portare via tutto ciò che siete. Eppure, ognuna di queste parti e pezzi sono voi. Sono tutte parti della vostra verità. Nessuna di loro è falsa. Forse alcune di loro non vi piacciono quanto le altre. Alcuni di questi aspetti sono veramente deplorevoli rispetto a voi umano, che è comunque solo un aspetto di voi. Il voi umano non ama alcuni di questi aspetti perché violano la felicità del voi umano, la gioia, l'abbondanza e tutte queste altre cose. Così, uno di questi altri aspetti di voi che avete creato ora sembra cercare di spingere fuori il voi piccolo umano che vuole semplicemente sicurezza e comodità, accidenti. Il piccolo umano che c'è in voi vuole soltanto, oh, lo sentiamo dire continuamente, io voglio solo essere felice. Lo sentiamo dire continuamente e vi confidiamo un piccolo segreto. Io non rido, ma Saint Germain se la ride quando sente ciò che dite, risate. Quello è il voi piccolo. Quel voi piccolo lo fa davvero e afferma: ho paura di questo grande mondo cattivo. Sono una vittima di questa realtà a tre dimensioni. Sono minuscolo e tutto è fuori dal mio controllo. Io voglio solamente la felicità. Ecco tutto. Caro Dio, io voglio solo la felicità. Quello è il piccolo umano che piagnucola. Il grande essere divino che voi siete non ha bisogno di felicità. La butta dalla finestra. È un termine falso in un certo modo. È un termine truccato. Felicità, quando considerate e percepite l'energia umana che circonda questa parola, è un'energia davvero finta, perché risulta condizionata, molto condizionata. Sarò felice quando? E poi iniziate a fare la lista delle cose che vi renderebbero felici. In effetti quella lista è irraggiungibile, non è neppure realistica, neppure per il vostro piccolo sé umano. Vedete? A quel punto la felicità dipenderà da cose così, da così tante condizioni che non si riusciranno mai a soddisfare. Il divino umano, che siete voi, e anche parte del vostro piccolo umano ne fa parte, il divino umano non ha bisogno di questa cosa chiamata felicità. Il divino umano è seduto proprio ora su queste sedie e semplicemente è. Semplicemente è. Ora, i piccoli umani chiedono, ma che cos'è? Definire semplicemente è. È, come direste voi, uno stato di totale soddisfazione. Permettere totalmente. Ricordatevi una delle nostre prime canalizzazioni. Accettate tutte le cose come sono. Il divino umano capisce l'essità, neologismo per is-ness, nota del traduttore, l'accettazione. Il piccolo umano dice all'umano divino, tutto questo suona piuttosto noioso, suona come se stessimo semplicemente seduti lì. Il divino umano guarda il piccolo uomo e dice, tu proprio non capisci. Sei talmente intrappolato nel dramma, nella dualità, sei così avviluppato nelle tue battaglie e lotte che credi di averne bisogno per sopravvivere. Il divino umano, voi, comprende tutto ciò che è. Comprende che essere è soddisfazione, completamento e tutte le cose. Si tratta di prendersi la piena responsabilità di se stessi. Volendo, potremmo giocare un gioco di semantica e parole, e il piccolo umano continuerà a cercare di resistere, di negare, proprio come un bambino che stressa i genitori con continue domande. A un certo punto si tratta solo di questo. Puoi sperimentare la tua essità? Il voi completo. Ogni parte di voi che ritorna a questa meravigliosa riunione chiamata il momento ora. L'integrazione divina, dove ogni parte viene accettata di nuovo, ma nessuno controlla o gestisce o ti distoglie dalla tua verità. Proprio ora, In questo periodo di tramonto della vecchia energia, ciò che sta avvenendo prima di tutto con liscia umbra è guardare alla vostra verità. Cos'è la vostra verità? L'avete sempre affrontata per molti anni, ma in questi ultimi 30 giorni la questione della verità si è fatta avanti con più veemenza. Chi siete? Non siete chi pensavate di essere, perché siete molto di più. Allora, chi siete? Siete stati fuori alla ricerca di una verità di base, qualche cosa su cui potervi basare, qualche cosa su cui poter contare per dire: questa è la mia verità. Questo è ciò che sono e da questa base proseguirò nella nuova energia. E indovinate cosa succede? Non riuscite a trovare quella base. Eppure in queste ultime settimane avete cercato la vostra verità. Chi siete voi? A che punto vi trovate? Qual è il voi giusto e sbagliato? Non riuscite a trovarlo e non lo troverete, in parte perché lo state cercando con gli occhi della vecchia energia e con i giudizi della vecchia energia, ma anche perché siete arrivati a capire che non è semplicemente una verità. Non esiste una singola filosofia, non esiste una sola religione, non esiste un gruppo spirituale che possiede la verità. Non esiste una sola verità su di voi. Voi siete molte, molte, molte, molte verità. E anche gli inganni su di voi ne fanno parte e sono parte della verità. Forse se dovesse esserci una verità, si ritornerebbe all'essità. All'io sono. Si ritornerebbe a qualcosa di molto basilare, qualcosa che avete percepito per migliaia di anni, perché si trova già dentro di voi. Qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno è già dentro di voi. La guarigione è già dentro di voi. La conoscenza, l'infinito, l'oltre la mente. Il discernimento è una parte integrante della vostra intuizione. È lì, dovete solo usarlo. L'abilità di lavorare con l'energia vi viene naturale. L'avete fatto da quando avete lasciato casa. Siete abili nel lavorare con l'energia e nel muoverla. Ma a volte vi piace negarlo, vi piace tirarvi indietro. Tutto. Jeshua l'ha detto moltissime volte, tutto è già dentro di voi. Così, mentre ci dirigiamo verso una nuova energia, questo è un argomento che riaffiorerà di nuovo e ancora, finché gli permetterete di essere qualcosa che si sblocchi. C'è tutto dentro, è già tutto lì. Facciamo un respiro profondo insieme in questo giorno. Molte sfaccettature. È una dinamica interessante l'energia di oggi. Non è particolarmente affascinante da un punto di vista numerologico. Alcune risate. Comunque stiamo iniziando la nostra nuova serie insieme. Oggi è un inizio. Useremo un titolo di lavoro per questa serie. Ve lo spiegheremo più avanti. Ovviamente, la serie del salto quantico. Comunque, abbiamo un altro suggerimento, ne parleremo più avanti. Titolo di lavoro: La serie del salto quantico. Allora si tratta di un inizio, ma è interessante, davvero molto appropriato che questo shoud, che risulta essere l'inizio di una nuova serie, sia anche l'ultimo shoud nella vecchia energia. Si tratta di un inizio e di una fine allo stesso tempo. È l'inizio. E la fine. È molto indicativo di ciò che continueremo a vedere dopo la data del 18 settembre che si sta avvicinando. Vogliamo utilizzarlo come un primo esempio di uno dei punti principali dello shoud di oggi. Tutto è multisfaccettato e sembra molto semplice, ma è una cosa molto importante da ricordare mano a mano che ci muoviamo nella nuova energia. perché proprio ora, sulla Terra, esiste l'illusione che le cose abbiano un solo aspetto. Guardate un albero. È un albero. Quello è il suo aspetto. Immaginatevi per un momento un pino o un albero sempreverde. Ci sono molti, molti aspetti. L'umano medio dà per scontato ciò che vede con i suoi occhi. Vede un albero che esce dal terreno e ciò che non vede, pur essendo parte integrante di questo oggetto multisfaccettato, è ciò che si trova al di sotto della superficie. Le radici che nutrono e dissetano tutto ciò che si trova al di sopra della superficie. Ciò che l'occhio non vede si trova all'interno dell'albero, oltre la corteccia, nel legno, negli aghi, tutto lì è multisfaccettato. Esistono altre parti di quello stesso albero che esistono al di fuori di questa realtà fisica. Si potrebbe dire che esistono migliaia di subcomponenti di quell'albero che non sono neppure toccabili o visibili o percepibili, in quanto esistono in un tipo di corridoio energetico o uovo che circonda quell'albero. Sono reali, sono tutti i suoi componenti, ma la maggioranza degli umani non andrà mai oltre la visione dell'albero, forse neppure toccandolo o odorandolo. Questo è un punto molto importante mentre ci dirigiamo verso la nuova energia. Tutto è multisfaccettato. Siamo qui per incoraggiare chiunque voglia cominciare ad osservare non solo ciò che appare sulla superficie, ma anche tutto il resto. Crayon afferma: le cose non sono mai come sembrano. Ciò significa che quel frammento di realtà che percepite non è tutta la storia. Proprio come voi pensate di essere qui seduti sulla vostra sedia, ciondolando la testa quando vi addormentate, chiedendovi quando arriverò al punto, pensando quanto caldo fa qui dentro. E questo è semplicemente caldo. Non siete neppure voi, molte risate, Tobias ridacchia. State percependo solo un aspetto, e forse quell'aspetto è l'aspetto del piccolo umano. È una parte integrante di voi, ma non è tutto di voi. Mentre la nuova energia avanza, sarete in grado di percepirne parti e la manifestazione di parti di essa con le percezioni del vecchio umano, gli occhi, le orecchie, il cervello, nel modo in cui siete stati abituati a portare dentro informazioni, a muovere e ad interpretare le cose. Ciò che cambia in modo particolare nella nuova energia è una dimensione multisfaccettata, specialmente di cose che diventeranno reali dopo la data del 18 settembre. I bambini nati dopo quella data, un nuovo albero cresciuto dopo quella data, qualcosa che verrà prodotto in una fabbrica dopo quella data, inizierà a portare con sé gli elementi della nuova energia. E mentre la maggior parte degli umani percepirà il suo lato di vecchia energia o solo uno dei suoi attributi dimensionali, voi, in quanto Sciaumbra, potrete cominciare a vederne gli aspetti multidimensionali. Voi potrete cominciare a vedere oltre ciò che si trova semplicemente sulla superficie e inizierete a percepire da sotto, da lontano, da ogni diverso lato e direzione. Lo farete semplicemente scegliendolo e rendendovi conto che tutto è multisfaccettato. Ogni cosa possiede molti, molti strati e aspetti, e grazie a questi diversi aspetti otterrete una visione più completa della natura di tutta la realtà. Una visione che vi darà una miglior comprensione di voi stessi e di tutti i vostri aspetti. Vedete? esplorando la natura multisfaccettata di ogni cosa, vi permetterete consciamente di non considerare il pavimento solo un pavimento. Esiste qualcosa sotto il pavimento. C'è qualcosa anche di fianco al pavimento. Questo pavimento esiste in questa terza dimensione, ma non potrebbe esistere se non esistesse simultaneamente in circa 900 altre dimensioni. Le dimensioni comunque non sono lineari. Non vanno dalla 1 alla 2, alla 3, alla 4, alla 5. Le dimensioni si muovono con moto circolare e si spostano continuamente e si intersecano l'una all'altra. A volte sono identiche tra loro, eppure si tratta di dimensioni diverse. Prima che si dividano e prendano ognuno la propria direzione. Cominciando a diventare molto, molto osservatori della natura multidimensionale, non stiamo dicendo di diventare esseri con la testa campata in aria rispetto alle cose. Stiamo parlando della fisica della nuova energia. Quando fate la scelta di essere consapevoli degli aspetti multidimensionali, di andare oltre, cominciate a vedere gli aspetti di voi stessi di cui abbiamo parlato nell'ultimo shaud e che stanno tornando a casa anche loro. Smetterete di percepirvi solo come il piccolo umano, con i bisogni del piccolo umano e i drammi del piccolo umano e il bisogno di essere felice, che significa semplicemente sopravvivere senza dolore. Risate. Comincerete a vedere chi siete veramente e ciò, nella nuova energia, sarà come essere un magnifico fiore che sboccia, che si apre, che si realizza. E come direbbe Kutumi, come siete stati sciocchi rispetto a certe cose, perché il piccolo uomo è stato l'unico aspetto che ha attirato finora la vostra attenzione e che ha avuto la capacità di creare la realtà che percepite. Comincerete a vedere quanto veramente magnifici voi siate nel creare, quanto non avrete bisogno di combattere per farlo, quando non dovrete soffrire per le vostre creazioni. Non dovrete diventare tediosi con loro, si potranno tenere in modo fluido ed eloquente. Arriverete a porvi una domanda estremamente interessante nel momento in cui radunerete insieme il concilio di voi stessi. Tutte le parti di voi, non solamente il piccolo umano. Quello è un concilio malvagio, qualche risata. Tutti gli aspetti di voi che includono anche gli aspetti relativi alle vostre vite precedenti. Come sapete, questi aspetti possiedono una tremenda saggezza ed è arrivato il momento di riportarli indietro e di considerare cosa è importante per voi adesso. Il piccolo umano ha guidato i vostri bisogni e i vostri desideri, ha stilato le liste di ciò che vi avrebbe reso felici, ma vi siete resi conto che ciò che renderebbe felice il piccolo umano non renderebbe necessariamente felice l'anima? Vedete? Molto spesso il piccolo umano fa programmi da piccolo umano e le mete e le carte del piccolo umano determinano il modo in cui ogni momento di ogni giornata del piccolo umano dovrebbe avvenire. Ma poi non succede e quindi il piccolo umano si stressa moltissimo e si chiede che cosa è andato storto. E proprio in quel momento il piccolo umano ritorna al suo «Beh, sono solo un piccolo umano, quindi pregherò il grande Dio che si trova là fuori da qualche parte, ma non è parte di me». Il piccolo umano comincia quindi a negoziare con il grande Dio, anche se ciò non funziona molto bene. E così il piccolo umano comincia a sentirsi davvero depresso, non sente di avere un'anima. L'anima sembra non ascoltare. Non sa davvero se crede nel grande Dio, anzi ha una paura fottuta di dover credere un po' nel grande Dio. ma in fondo il piccolo umano è deluso dal grande Dio. Il grande Dio non ascolta, non ha favorito il piccolo umano oggi. Forse il piccolo umano ci riproverà domani, ma dopo un po' il piccolo umano si stanca di questo gioco e inizia a fare cose piuttosto contorte e malvagie, giusto per attirare l'attenzione del grande Dio e di chiunque altro lo voglia ascoltare: genitori, amici, capi, governo, ufficiali di polizia, esercito, risate. Qualsiasi cosa pur di attrarre l'attenzione di qualcuno, perché il piccolo umano non si sente al sicuro. Il piccolo umano non è felice. Molto francamente, la grande anima del piccolo umano è veramente disturbata e distratta dalle manipolazioni e dai controlli messi in atto proprio dal piccolo umano. Il grande Dio non esiste comunque, quindi non potrebbe occuparsene. Il grande Dio, nei termini con i quali attualmente pensiamo a Dio. Il grande Dio è la grande anima. È già proprio lì, fa già parte di voi, ma il piccolo umano ci ha già speso così tanto tempo ed attenzione. Ha fatto del suo meglio per sintonizzarsi su questo suo aspetto, ma è soltanto un aspetto. Non è voi, è parte di voi, ma non è voi. Mentre vi muovete verso la nuova energia, comincerete a rendervi conto di ciò che è importante per voi, non per il piccolo voi, e vi ritroverete ad essere molto seccati quando vi renderete conto di quanti problemi e stress il piccolo voi sta creando al voi intero. Coldre si sta meravigliando. Questa è la brutta copia di George Carlin, un predicatore TV, nota del traduttore. Molte risate, Tobias ridacchia. Anche noi canalizziamo, sapete. Cominciate a comprendere, Shaumbra, entrando nella nuova energia, che tutto presenta molti aspetti e voi non fate eccezioni. Cominciate ad aprirvi ad altri aspetti di voi man mano che si affacciano nel momento ora, in questo bel tempo di nuova consapevolezza. Cominciate ad osservare il voi anima, il voi vite precedenti, il voi spirituale, il voi davvero non spirituale. Tutti questi sono aspetti di voi. E nel momento in cui cominciate a divertirvi e a giocarci e a comprendere che c'è molto più che solamente il piccolo voi, comincerete a capire davvero quanto magnifici siete. Vi renderete conto che non ci siamo seduti qui negli ultimi 8 anni semplicemente per nutrirvi di parole che vi rendessero felici per poche ore. Abbiamo cercato dentro di voi la gemma, il diamante, che ha così tante sfaccettature, così tanti aspetti. Arriviamo ora a questa questione totale della nuova energia. Che cosa c'è di importante? Il voi piccolo, quel voi piccolo che entra nella nuova energia, può fare due cose. Da una parte si ribella perché non gli piace. Perché la nuova energia significa cambiamento e il voi piccolo odia cambiare. Perché il voi piccolo si rende conto che ogni cambiamento significa che il voi piccolo monello non potrà più continuare ad urlare, alcune risate, tiranno della vecchia energia. E il voi piccolo, quello che resiste al cambiamento, perché è come un bambino che punta i piedi, fa i capricci. Il voi piccolo non ama proprio per niente il cambiamento che sta avvenendo, che si sviluppa all'interno di questa cosa chiamata la nuova energia. Cominciate a dare un'occhiata a cosa è importante. E come avete già avuto la possibilità di sperimentare, la prima cosa che avviene è niente sembra essere più importante. Niente. Parlate di perdita di passione, perché la passione in effetti era determinata semplicemente dai desideri del voi piccolo. Desideri che non erano affatto passione. Semplicemente il voi piccolo cerca di tenere in piedi il suo piccolo impero ordinato. È davvero difficile essere veramente e consapevolmente appassionati quando ci si limita alla lista di felicità stilata dal voi piccolo. Vi accorgerete che mentre continuate a rifarvi la domanda, allora, cosa voglio fare? Cosa scelgo? Per un po' vi sembrerà vuota e in bianco, fino a che comincerete a rendervi conto di chi siete, dei potenziali che avete, del fatto che non avete bisogno di cercare di proteggervi. Oppure non dovete ascoltare tutto ciò che il voi piccolo sta dicendo. Le motivazioni primarie della vostra vita qui sulla Terra non sono più solo nutrirvi, vestirvi e proteggervi. Di potete raggiungere aree molto, molto più grandi. Oltre alle necessità di base, cibo, vestiario e un tetto, sapete che quella di cui si sono dimenticati è stata la consapevolezza. La consapevolezza. Gli umani non la considerano come parte degli elementi di sopravvivenza. Invece, lo è in modo assoluto. La consapevolezza è come il respiro. Se non respirate, se smettete di respirare, smettete di vivere. Quando fermate la consapevolezza, il flusso naturale di consapevolezza, la vita si ferma, si blocca, il flusso naturale delle vostre energie attraverso questo corridoio. Che definite vivere sulla Terra in forma umana. Ma ritorniamo al punto. Tutto è multisfaccettato, voi inclusi. Non appena vi rendete conto di questo, mentre cercate nella nuova energia ciò che dovete fare, ciò che è importante, la prima cosa che capirete è che nulla è importante. Ultimamente molti di voi stanno attraversando proprio questo, le cose nella vostra vita, i modelli che voi continuate a riproporre, li ripetete. Vi è mai passato per la testa che se anche continuate a ripetere all'infinito un modello negativo, il fatto di ripeterlo non lo rende positivo? Se continuate a ripetere il vecchio modello, cosa vi fa pensare che ne verrà fuori qualcosa di buono? È come andare in giostra, continuate a girare in tondo, in tondo, in tondo. È solamente quando scegliete di scendere dalla giostra, di uscire dai livelli della consapevolezza del voi piccolo, di fare un cambiamento, di sentire una nuova passione. Quello è il momento in cui tutto inizia a muoversi. Sappiamo, Shaumbra, che lo state facendo. Questo messaggio è parte di voi. Questo messaggio è una parte di voi che state sul sentiero che porta alla nuova consapevolezza, sulla soglia della nuova energia. E per tutti coloro che vorranno raggiungerci in questo modo e che si stanno chiedendo come diavolo arrivarci. Parte di questo shaud oggi consiste nel piantare questo semplice e meraviglioso messaggio per quelli che si sono persi nella loro umanità piccola, per quelli che stanno soffrendo, per quelli che stanno cercando, per quelli che hanno un piede nel desiderio di andare avanti verso una nuova consapevolezza nella loro vita, mentre l'altro piede è imprigionato nel cemento della vecchia energia, impauriti. Impauriti di fare un passo avanti. Così oggi, Shaumbre, stiamo scrivendo questo biglietto per loro, Se arriveranno a questo punto, se rimarranno bloccati qui, cosa che molti faranno, molti di voi hanno già fatto l'esperienza di che cos'è. Il biglietto dice semplicemente: tutto è multisfaccettato. Ciò che percepite in questo momento non è tutto ciò che è presente nel momento. C'è molto di più. Ciò che vedete in modo molto lineare è che le vostre paure sicuramente non sono affatto ciò che appaiono. Voi siete anche Dio. Potete scegliere e creare qualsiasi cosa desideriate. Non abbiamo detto che voi siete umani piccoli. Abbiamo detto che siete Dio. Voi siete voi. Visitate il centro servizi Shaumbra. Con ciò Shaumbra, ora come gruppo visitiamo insieme oggi il centro servizi Shaumbra. Tutti quelli che sono riuniti qui, tutti quelli che sono sparsi nel mondo, quelli che leggeranno più tardi queste parole, tutti coloro che sono arrivati al punto nel loro percorso di consapevolezza spirituale, quelli che sono arrivati fino a questo punto, unitevi a noi. Forse non potrete venirci per un altro anno o due. Forse ci vorranno altri 50 anni, altre 5 vite prima di arrivarci. Ma accompagnateci oggi. Andremo fuori ad esplorare alcuni nuovi livelli. Il centro servizi Shaumbra è un posto che è stato creato. Un luogo multidimensionale creato dagli Shaumbra originali, che l'hanno costruito partendo da energia, amore e vera passione. Si tratta di un luogo dove si sono riuniti prima della nuova energia, quando si sentivano feriti, quando avevano bisogno di guarire e di ringiovanire. Questo gruppo di audaci pionieri ha creato questo luogo definito il Centro Servizi Shaumbra, dove vi invitiamo tutti ad unirvi a noi. Alcuni di voi sono già stati qui. Alcuni di voi hanno aiutato a creare questo incredibile spazio multidimensionale. Forse lo noterete durante il nostro viaggio qui oggi. E comunque ci arrivate facendo una scelta consapevole. Fate un respiro profondo. Fate una scelta consapevole. È così facile. Non rendetelo più difficile. Non preparate una lista di direzioni e di regole da seguire per arrivare qui. Non deve essere fatto in un giorno particolare o dopo aver fatto una dieta specifica o un digiuno. Semplicemente fate una scelta. La nuova energia è così semplice. Ci riuniamo tutti, passati, presenti e quelli che entreranno in un potenziale futuro, in questo posto chiamato Centro Servizi Shaumbra. È così che abbiamo scelto di essere. Può essere grande, può essere piccolo. Uno spazio aperto in un certo momento ed il momento successivo circondato dalle più belle opere di vetro che abbiate mai visto e che aiutano a mantenere l'energia, almeno durante il tempo che condividiamo. Ci potrebbero essere elementi d'acqua e per molti di voi elementi trasmutazionali di fuoco. Elementi di terra ed elementi d'aria. Potrebbero esserci tutte queste cose, tutto ciò che sceglierete. Il centro servizi Shaumbra è magico perché è il vostro luogo. È anche il luogo degli altri Shaumbra, ma qui non ci sono regole. Non dovete togliervi le scarpe all'entrata, potete fumare se volete. Nessuno se ne preoccupa. Potete mangiare, bere, meditare. Vi lasceremo addirittura pregare qui, se proprio ci tenete, e qualsiasi cosa decidiate di essere. Vi renderete conto di un aspetto interessante di questo centro servizi Shaumbra. Non dovete preoccuparvi di disturbare nessuno. Potete essere qui con molti, molti altri, come facciamo noi ora, e in particolare nella nuova energia. Ciò non disturba le creazioni o le scelte di nessun altro intorno a voi. È stupefacente come questo avviene, molto diverso dal vivere sulla Terra, dove dovete essere costantemente consapevoli di chiunque altro, del fatto di disturbarli o meno. Probabilmente è più visibile se loro stanno disturbando voi, sia che stiate russando rumorosamente o emettendo strani odori dal corpo o qualsiasi altra cosa. Esistono tutte queste questioni legate al violare lo spazio altrui, ma non qui, nel centro servizi Shaumbra. Ci riuniamo quindi nel centro servizi Shaumbra, in questo bel momento. Ora, come gruppo di Shaumbra, sarebbe molto opportuno per noi se sceglieste di fare un respiro profondo insieme e percepire poi le energie sicure e sacre di questo luogo. L'ospite di oggi. Nel centro servizi Shaumbra introdurremo ora il nostro ospite. Chiediamo ad ognuno di voi di percepire le energie mentre introduciamo il nostro ospite di oggi, Lucifero. Il pubblico mormora. Ora percepitene l'energia, anche se ho pronunciato la parola Lucifero. Non lo stiamo facendo per scioccarvi. Lo stiamo facendo perché è arrivato il momento di attraversare una certa energia. Percepite l'energia di questo essere, che molti di voi hanno conosciuto fin dai loro primi giorni. Lucifero, il diavolo, il cattivo ragazzo, l'angelo caduto. Interessante. L'angelo caduto. Mi chiedo se molti di voi potrebbero mai identificarsi in quell'energia luciferina, perché, ad un certo punto, vi siete sentiti come un angelo caduto. Esistono moltissimi miti su Lucifero. Cominciamo dal nome. Il nome Lucifero deriva dal latino, che non dirò. Il termine latino significa colui che sopporta o che porta la luce. Nella Bibbia non esistono quasi riferimenti a Lucifero, se non alcuni di voi studenti andassero a controllare, non ne troverebbero nessuno. Eppure l'energia di Lucifero, del diavolo, del cattivo, dell'ingannatore, è fortissima nella consapevolezza umana. È una rappresentazione simbolica del diavolo. Una delle famiglie dell'ordine dell'arco è l'ordine di Luceffa, che significa della luce, che si rivela negli aspetti multidimensionali. In altre parole, la luce, la saggezza che cammina ora sulla terra, come voi. E questo è diventato il maligno o il negativo, colui che è caduto e quindi molti di voi sono caduti nella trappola di credere che esista questo essere che se ne va in giro cercando di rubare la vostra anima, cercando di rubare la vostra energia. Eppure, nella sua essenza, Lucifero significa colui che porta la luce. E secondo il modo della nuova energia di mettere le cose, l'espansione della consapevolezza. Si tratta di una parte integrante di ognuno di voi e non c'è nulla di cui avere paura. Devo dirvi qualcosa di interessante. Io, Tobias, insieme a Saint Germain, Kutumi e Kuan Yin, volevamo davvero definire questa la serie di Lucifero. Il pubblico ride. Prima mi sono seduto con Cold. Lui ha dato la colpa a Linda, naturalmente, dicendo che non avrebbe mai accettato, ma sapevamo che lui era molto preoccupato. Ha sollevato un punto umano molto interessante che non avevamo preso in considerazione, in quanto, non è che prendiamo tanto in considerazione i punti di vista umani. Molte risate, Tobias ridacchia. Il fatto è che se avessimo definito questa la serie di Lucifero, la serie del portatore di luce, ciò avrebbe potuto determinare danni potenziali alla proprietà e al corpo fisico materiale di coloro che sono associati e personalmente con il Crimson Cycle. Abbiamo quindi deciso di chiamarlo, parlando con una voce esageratamente blanda, la generica serie del salto quantico. Linda dice grazie e Tobias ridacchia. Ma il punto, il nostro punto, è che è arrivato il momento di dare una mossa ad alcuni degli umani che sono bloccati sul serio. E questo sarebbe stato un bel modo di farlo. Sono così bloccati nei loro vecchi modi, nelle loro paure e demoni. Essi amano i loro demoni. Comunque, voi fate lo stesso. Ed ecco perché siamo qui oggi. Risate. Loro amano i loro demoni, che sono i loro dei perché li gestiscono e li dominano. Così abbiamo pensato che sarebbe stata una dinamica, come dire, interessante per definire questa la serie di Lucifero, perché alcuni umani si sarebbero fermati e se ne sarebbero accorti. Coloro che seguiranno il sentiero e si ritroveranno in questo punto vedranno un grosso cartello che dice: state per entrare nella serie di Lucifero per il Crimson Cycle. Il che almeno li risveglierà dalla loro trance, li farà fermare almeno per un attimo. Ma che cosa significa portatore di luce, espansore di consapevolezza? Non esiste Lucifero, non esiste un Lucifero, almeno quello raffigurato dalle chiese, che lo usano come mezzo di controllo sugli umani. L'unico Lucifero Satana che esiste è quello che è stato creato consapevolmente dalle organizzazioni o chiese, o da coloro che vogliono crederci. Così si è creato quello che noi definiremmo un aspetto di gruppo, proprio come l'energia di Gesù. Comunque, molto, molto tempo fa, parliamo del termine Gesù o Yeshua. Lucifero o Yeshua erano termini intercambiabili tra loro. Percepite per un momento. Pronuncerò due parole. Percepitene l'energia. Cristo. Lucifero. Si tratta della stessa energia, portatore di luce, portatore di nuova consapevolezza. Comunque sia, chiameremo questa serie la serie del salto quantico, ma tutti sappiamo che ciò che stiamo veramente cercando di fare è dire: È arrivato il momento di superare i vostri demoni. È così. Ecco perché oggi ci troviamo nel centro servizi Shaumbra, con Lucifero come ospite. È arrivato il momento di superare i vostri demoni. Parliamone per un momento. Questa energia che definite Lucifero non esiste realmente. Si tratta di un aspetto della consapevolezza di gruppo, di quelli che hanno scelto di credere in questo essere malvagio e potente che consumerà la loro anima. Ma in effetti non esiste, non c'è proprio. Satan, deriva da una vecchia parola ebraica che significa avversario, quello cui andare contro. Non esiste un Satana che viva all'inferno o da qualsiasi altra parte. Non esistono tutti i demoni con i quali vi siete messi d'accordo. Molti di voi li hanno abbandonati. Ma ci sono ancora demoni di un tipo o di un altro dentro di voi. Oggi, nel centro servizi Shaumbra, diamo un'occhiata ai demoni, diamo un'occhiata a ciò che fanno, al perché esistono e al perché ve li portate dietro. Demoni. In effetti esiste una grande varietà di demoni cui date nomi diversi e con i quali avete relazioni diverse nei vostri aspetti e nelle vostre sfaccettature. Ma essi sono comunque vostri demoni. Vi chiederemo di confrontarvi con loro, intendendo di riconoscerli oggi e di comprendere perché li avete trasformati in demoni, per comprendere che essi sono vostri. Una delle cose che gli umani tendono a fare è quella di negare i propri demoni, appioppandoli a qualcun altro. Le persone dicono: questo non è il mio demone, questo è Lucifero, un angelo caduto. Lucifero possiede il suo clan privato, Lucifero, Satana, qualsiasi nome vogliate dargli. Così le persone danno nomi ai demoni per metterli al di fuori di sé, ma la realtà è che essi vi appartengono. Si tratta del vostro demone. La prima cosa da fare in demonologia, risate, è comprendere che si tratta dei vostri demoni e capire che ci sono anche altri nomi. Noi parliamo di Lucifero e Satana, ma esiste una terminologia sterminata. Alla fine, però, essi sono vostri, sono i vostri demoni. Nel momento in cui cercate di dire: ma quello arriva da quel posto chiamato inferno, dove i diavoli sono esseri disincarnati che si sono attaccati a voi e vi stanno succhiando l'energia. Nel momento in cui dite che si tratta di demoni alieni, nel momento in cui ci credete e li rendete più importanti e sono più di voi, allora il diavolo assume il controllo. Si tratta di una parte di voi, eppure vi controlla. Riesce a superare quell'aspetto di umano piccolo e non permette che vi sta portando via l'attenzione. I demoni sono vostri e oggi vi chiederemo, a questo punto sulla soglia della nuova energia, di riconoscere che essi sono vostri e non appartengono a nessun altro. Non esiste nessun grande spirito, spirito maligno negativo, che si è attaccato a voi. Non esistono più gruppi che esercitano un controllo diabolico su di voi. Non esiste un governo che sta manipolando radio e frequenze luminose. E non è un diavolo esterno alla vostra vita che vi fa bere l'acqua del rubinetto. Risate. Ogni demone è vostro. Non esiste più alcun sistema finanziario che vi controlla. Ogni demone è vostro. Vedete? Nel momento in cui lo mettete al di fuori di voi, gli regalate un'incredibile quantità di potere. In effetti si trova ancora dentro di voi, ma voi l'avete messo fuori perché l'umano piccolo tende a pensare che il fuori sia più grande del dentro, che il fuori sia più potente. Ogni demone è il vostro demone privato. Diamo un'occhiata ad alcuni degli altri demoni che avete creato. Il demone della morte. Quello è un buon esempio ed è probabilmente uno dei più terrorizzanti e prevalenti, perché esiste pochissima informazione reale riguardo alla morte. La morte è un grande buco nero. Così il diavolo diventa davvero spaventoso. Quanti anni della vostra vita avete vissuto scappando dalla morte, il demone della morte? Cercando di evitarlo, cercando con tutti i trucchi di liberarvene, cercando di nascondervi dalla morte, cercando di evitare i dolori fisici, cercando di non essere investiti da una macchina. Quante ore della vostra vita avete sprecato cercando di evitare il demone della morte? Quel demone è vostro. Si tratta della vostra paura di ciò che c'è oltre. Si tratta dell'umano piccolo che non vuole nessun cambiamento. L'umano piccolo che vuole continuare ancora e per sempre. Voi avete creato questo demone della morte, più grande della vita. È arrivato il momento di guardarlo in faccia. È vostro. Non esiste la morte. Esiste la transizione e l'evoluzione, ma non esiste la morte. Allora, di che cosa avete paura? Io so di che cosa avete paura. Bevo un sorso d'acqua prima di dirvi. Risate mentre Tobias Cauldre beve un sorso d'acqua. Esattamente perché avete creato questo demone della morte e perché ne avete paura. Perché avete paura del giudizio. Siete stati portati a credere che quando morirete verrete giudicati dal grande Dio e dal grande Gesù. Risate. E anche da voi stessi. Verrete comunque giudicati in un modo o nell'altro, ed ecco che si crea questo demone della morte ed è vostro. È arrivato il momento di superare anche questo. Voi avete creato il demone della mancanza. Ne abbiamo parlato prima. Mancanza di abbondanza, mancanza di relazioni, mancanza di tutto. Avete cercato di manipolarlo, questo demone della mancanza. Avete cercato di negarlo. Avete cercato di lavorare così duramente, semplicemente per rimanere mezzo passo avanti rispetto al demone della mancanza. Si tratta di un mostro. Io so che lo è. Ne avete paura di notte, mentre cercate di prendere sonno. Compare sotto forma di una bolletta non pagata, sotto forma di un esattore, sotto forma di istituzioni finanziarie che vi sottrarranno tutto. Voi lo ponete al di fuori di voi, questo demone della mancanza, e fate finta che non sia vostro e gli regalate un enorme ed incredibile potere, fino al punto in cui controlla la vostra vita, fino al punto in cui vi trovate a vivere una battaglia costante, una caccia costante tra il voi piccolo e il demone della mancanza. Quanto del vostro tempo avete sprecato e consumato con questo demone? Avete demoni di solitudine, paura di essere soli, paura che questo demone vi spazzi via e vi ritroverete spersi in un profondo abisso oscuro, soli con voi stessi per l'eternità. So che suona decisamente terrificante. Ma si tratta di un demone che voi avete posto là fuori, perché è difficile credere che sia dentro di voi. Voi siete soli. Voi siete soli, non a causa delle persone al di fuori, ma voi siete soli con voi stessi, dentro di voi. L'umano piccolo se ne va in giro da solo, cercando di trovare amici, cercando di trovare qualcuno che lo ami. Va fuori, esce da se stesso, poi cerca di nutrirsi di altre persone. L'umano piccolo non avrebbe questo demone se l'umano piccolo e il voi totale si riunissero, si trovassero insieme in questo momento, ora. Ci sono i demoni della pazzia, molti demoni della pazzia. E avete paura di impazzire, e io ve lo dico proprio adesso, voi lo siete già, risate. Perché la pazzia è collegata al modo in cui lavora la vostra mente. Ecco che questo demone è stato creato in un certo senso come controparte della mente, quasi come un'estensione della mente. E voi vi chiedete se impazzirete e passate infinite ore a cercare di dire a voi stessi che non siete pazzi, scappando dal vostro demone. Alla fine, prima o poi, dovrete uscire dalla vostra mente, perché la mente non può comprendere il Dio che siete. La mente non può comprendere la grandezza che siete. E quindi sì, prima o poi, si tratta di abbandonare quel controllo e permettersi di impazzire. Il demone della pazzia è quello che tiene lontano da voi la fiducia. Vi separa, piccoli umani, dalla fiducia in voi stessi. Il demone della pazzia fa in modo che non abbiate fiducia in ciò che siete. Vi porta a dubitare di voi stessi. Vi fa pensare a decisioni giuste, decisioni sbagliate, buone decisioni, nessuna decisione. Vi impedisce di avere vera fiducia in voi stessi. Avete demoni per tutto, demoni delle altre persone che vi prendono in giro. Così create questo demone, lo mettete al di fuori di voi e date il potere ad altre persone di usare le sue energie, perché voi avete paura di essere ridicoli. Perché di base l'umano piccolo determina la propria identità attraverso esseri esterni, attraverso altri umani. Così l'umano piccolo cerca di sviluppare la consapevolezza di se stesso, attraverso il mondo esterno, le reazioni delle altre persone, le relazioni con le altre persone. Si crea così questo enorme demone dell'essere ridicolizzati, derisi, disprezzati, scarniti. Questo è sì un demone, ma è vostro. Smettetela di prendervela con una qualsiasi cosa al di fuori di voi. La lista dei demoni continua all'infinito, ma sono tutti vostri. Non c'è una singola cosa che vi possa veramente che possa veramente ferirvi al di fuori di voi. Non ci sono demoni fuori di voi. Altre persone hanno i loro demoni, ma i loro demoni non divoreranno i vostri. I demoni sono vostri. Proprio quell'aspetto dell'umano piccolo attiri tutta l'attenzione. Affrontare i demoni. È il momento di considerarli. È il momento di sentire la loro energia. È arrivato il momento di invitarli proprio ora. Nel centro servizi Shaumbra dove ci troviamo. Cosa sono i vostri demoni? Di che cosa avete paura? Avete paura del dolore fisico? Il demone del dolore. Voi pensate che il dolore arrivi dall'esterno. Il dolore può esservi inflitto da qualcun altro. Così lo sfuggite. Ma quante ore infinite e giorni ed anni avete trascorso sfuggendo il dolore? Il dolore comunque è un'illusione. Il dolore in sé stesso è un'illusione. Cosa sono i vostri demoni? Mentre siete seduti qui nello spazio sicuro, ve la sentite di invitarli come noi abbiamo invitato Lucifero? È divertente, Ai miei tempi questo spirito eterno negativo aveva un nome, Belzebù. Ora, quanto credibile può essere uno spirito cattivissimo? Bu! Risate. Belzebù! Che nome! Ovviamente doveva essere cambiato. Forse Lucifero è un nome migliore. Satana, ma almeno non Belzebù. Un nome da principiante per quello che si supponeva fosse un diavolo terribile. Cosa sono i vostri demoni, Shaumbra? Cosa sono? Prendeteli in considerazione proprio adesso. Sono tutti lì. Potete sentirli. E forse la salute? Di che cosa avete paura? Molti di voi si portano dietro questo demone quasi indefinibile, per cui qualcosa vi consumerà, qualcosa di esterno, arriverà e vi inghiottirà. Le chiese lo rappresentano attraverso Satana o Lucifero, in forma di un essere che vi porterà via la vostra anima per l'eternità. Nessuna anima può portare via un'altra anima. Non funziona così. Semplicemente non è così. Sì, per un certo periodo di tempo potete crearne l'illusione, ma alla fine nessuno può avere la vostra anima per l'eternità. In effetti, nessuno la vuole per l'eternità. Risate. Cosa se ne faranno di tutte quelle anime? Organizzeranno una festa per le anime stupide? Più risate. Tobias ridacchia. La buona notizia, Shaumbra, è che possiamo starcene qui seduti nel centro servizi parlando del diavolo, del demonio, di Lucifero, di Satana, ridendone. Vi rendete conto a che punto siamo arrivati? Vi rendete conto che non molti anni fa stavate ancora scappando da questo essere, scappando da questi demoni che vi facevano sprecare la vita? Ora possiamo sederci qui e dire: Ehi, questi sono i miei demoni, che grandi creazioni sono state. Sapete, è un po' come lasciare che l'aria esca da una di quelle grandi e orribili bambole gonfiabili. Ed è esattamente ciò che stiamo facendo proprio ora. Quei diavoli che apparivano così grandi, così terrificanti, così spaventosi, perché potevano portarsi via la vostra anima per l'eternità, non sono nient'altro che palloni pieni di aria calda. Ora possiamo lasciare che l'aria esca, ma per poterlo fare è fondamentale riconoscere che sono vostri. Quando vi trovate in mezzo a cose tipo cospirazioni, alieni, quando cominciate a dirmi che ci sono degli esseri malefici attaccati a voi, che crescono su di voi, che vi seguono dappertutto. Devo scuotere la testa e devo dire: guarda che sei solo tu. Sei solo tu. Una parte di te che non ti piace. Una parte di te cui hai concesso un gran potere, ma si tratta pur sempre di te. Quando cominciate a dire: ci devono essere dei gruppi del passato che stanno controllando la mia vita ora e mi rendono impossibile essere creativo e avere successo. Io devo solo dirvi, ma è il tuo demone, è te. O forse arriva da una vita precedente. Probabilmente si tratta di un'esperienza negativa che hai avuto lungo la linea, perdendo denaro o facendo qualcosa di stupido. Magari perdendolo al gioco, dandolo via o investendolo in qualcosa di davvero negativo, ma è roba tua. Nel momento in cui concedete quel tipo di potere e controllo ad un'entità esterna a voi, che ora definiamo un demone, vi ritroverete ad essere sotto il suo controllo. Nell'attimo in cui l'umano piccolo, con la sua paura e il suo desiderio di sopravvivere, permette che un demone esterno diventi reale nella sua vita, allora è reale. Verrete perseguiti e tutti questi fatti drammatici e i costi relativi si manifesteranno nella vostra vita. Eppure, nel momento in cui smetterete, proprio ora, qui nel centro servizi Shaumbra, circondati da me e Kuan Yin e dagli Shaumbra e anche Lucifer, e riconoscete che quei demoni sono vostri fino all'ultimo, che non esiste un'influenza esterna, non importa quanto ci vogliate credere, non esiste un'influenza esterna che possa prendere il controllo su di voi. Esiste la percezione di controllare il vostro umano piccolo, ma è solamente una percezione. Accettare e liberare i demoni. Ed ora vi chiederò di fare un altro grande passo avanti oggi, se decidete di farlo. Dipende dalla vostra scelta. Riconoscete quei demoni e lasciateli liberi. Lasciateli andare, lasciateli andare. Essi sono solamente sfaccettature di voi che recitano una parte. Giocano una creazione estremamente complessa. Una creazione che è diventata così grande, così complessa e così reale che ci credete. Voi credete che sia una sfaccettatura, ma ricordatevi che tutto è multisfaccettato. Girate il globo multisfaccettato della realtà per un momento. Smettetela di fissare solo un lato. Giratelo. Guardatelo da ogni prospettiva e capirete che, come dice Crayon, le cose non sono sempre come appaiono. Non esistono i diavoli, non esistono cospirazioni maligne che vi consumeranno, a meno che non sia questo ciò che volete che accada. Quei diavoli sono vostri e prima di poter entrare nella nuova energia è importante riconoscerli. Non sono pochi, non sono molti, ma tutti loro, ogni diavolo è vostro. Adesso sento le varie argomentazioni. Ma Tobias, ma Tobias. Chi sta parlando? L'umano piccolo. L'umano piccolo che vuole continuare a credere in queste cose. L'umano piccolo che in effetti prova grande gioia e soddisfazione in questa storia dei diavoli e dei mostri. Sapete? In effetti questo concetto generale del demonio dà una grande credibilità all'umano piccolo. Gli rende la vita più reale, più inebriante, più drammatica e gli sottrae un mucchio di energia. L'umano piccolo sta succhiando energia. I diavoli mi prenderanno e tutti quindi devono aiutare l'umano piccolo che sta cercando di mettere insieme gli altri aspetti e sfaccettature di se stesso per ricadere in questa storia. Le vostre storie, molte di loro, anche quelle sono i vostri demoni. Voi tutti avete storie, ma nessuna è più grande di quella di Saint Germain, risate. Ma voi tutti avete le vostre storie, storie di vite precedenti, storie precedenti alla Terra, storie di questa vita. Le storie fanno parte della vostra base di esperienza. Non solo voi umani piccoli avete storie, ma ognuno dei vostri lati e aspetti ha le sue storie. L'umano piccolo in particolare è molto, molto bravo a raccontare storie, esperienze passate e a trasformarle in demoni, lasciando che la storia gli sfugga di mano, lasciando che un aspetto di sé diventi così dominante da annullare, o in effetti, come direi io, soffocare voi, voi in questa vita. Vi lasciate guidare dalle vostre storie, potreste definirle addirittura i vostri demoni. Si tratta di storie che sono diventate troppo grandi, che vi sono sfuggite di mano, troppo seducenti, troppo bloccate nella vecchia energia, tanto che pensate di doverle mantenere vive. Si tratta di un demone, e vostro. Forse è arrivato il momento di lasciarlo andare. Avvicinandoci alla soglia della nuova energia, è arrivato il momento di mollare tutte queste cose. Vi rendete conto che facendolo fate qualcosa che assomiglia a baciare il ranocchio, alcune risate, e capirete che dopo tutto non è una cosa così brutta. I demoni non hanno potere o controllo se non quello che voi gli avete concesso. Vi accorgerete che ogni vostro demone, ogni vostra storia contiene in effetti una perla di nuova energia, una benedizione che forse vi sareste persi se non vi foste confrontati con quel demone in quanto vostro. Tutto ciò da cui siete sfuggiti di notte nei vostri sogni, nel buio mentre eravate svegli, le paure che ci fosse qualcuno che vi rincorreva inseguendovi. I demoni che avevate, è arrivato il momento per voi. Non per l'umano piccolo, ma per voi, l'umano divino, seduto in queste sedie, di fare un respiro profondo. Metaforicamente, se questa è la vostra scelta, immaginate di sbloccare quell'energia. Si tratta di una vecchia energia bloccata e non era il diavolo a possederne la chiave. Ce l'avete sempre avuta voi. Avreste potuto sbloccarla in ogni momento. Una parte di voi, umano piccolo, si stava divertendo un po' troppo con quel gioco. Per superare la soglia che porta alla nuova energia, è importante liberarsi di quel gioco, lasciare che la vecchia energia bloccata dei vostri demoni se ne vada. Quando sbloccate quell'energia stagnante dei demoni, quando mollate le vostre storie, esse non si trasformeranno in demoni ancora più grandi, in storie ancora più grandi. I demoni ritorneranno a voi, ritorneranno ad essere parte della vostra pura energia, in un modo da non esaurirvi, né spaventarvi, né controllarvi più, ma di fatto torneranno ad essere di nuovo pura energia, che è qui per servirvi, e vi servirà secondo i canoni della nuova energia. Vi abbiamo già detto che le cose nate, create, immaginate o sviluppate, in particolare dopo il 18 settembre 2007, conterranno un elemento o un potenziale di nuova energia. Ciò comprende tutto ciò che fate, ogni pensiero, ogni sogno notturno, ogni cosa che create con le mani o con la voce, anche qualsiasi cosa che creerete nella vostra mente, conterrà elementi di nuova energia. Una volta liberi dai vostri demoni, una volta riconosciuti, quando li affronterete e li liberate, saranno in vostro possesso. Una volta compreso che li avete creati voi, potrete anche distruggerli, il che libererà una tremenda quantità di energia che potrete utilizzare in modi estremamente creativi. Potreste cominciare oggi, ma in effetti comincerete a vederli all'opera tra qualche settimana. E con questo Shaumbra, qui nel centro servizi, facciamo un respiro profondo tutti insieme. Trattenete il respiro per un attimo e quando espirate, fate in modo che sia come sgonfiare i palloni di questi demoni che avete creato. Lasciateli andare. Lasciate che l'energia vada. Non esistono demoni, esistono solo tutte parti di voi. Sediamoci semplicemente qui, per un breve momento, insieme in questo centro servizi. Voi, Shaumbra, avete contribuito a creare tutto questo. Molti, molti altri passeranno di qua. Potranno non definirlo il centro servizi Shaumbra, ma sapranno che si tratta di uno spazio sicuro. Uno spazio molto sicuro. Uno spazio dove possono essere se stessi. Uno spazio sicuro lungo questo sentiero di nuova consapevolezza, a volte molto stimolante. Fate un respiro profondo. Liberate i demoni. E quando siete pronti, fate ciao ciao con la manina a Lucifero. Riportiamo ora la nostra energia qui. Non importa da dove arriva. Ritorniamo sulle sedie, qui nel momento ora. E sì, potete riportare qui con voi l'energia del centro servizi Shaumbra. E così è il primo shaud della serie del salto quantico. Nota finale. Tobias del Concilio Cremisi, Crimson Council, viene presentato da Jeffrey Hopp, anche noto come Cold, di Golden in Colorado, Stati Uniti. La storia di Tobias, dal biblico libro di Tobit, può essere visionata sul sito www.crimsonsalco.com. Le documentazioni Tobias sono offerte gratuitamente agli operatori di luce e agli Shaumbra di tutto il mondo, fin dall'agosto 1999, momento in cui Tobias affermò che l'umanità aveva superato il potenziale di distruzione per entrare nella nuova energia. Il Crimson Circle, cerchio cremisi, è un network globale di angeli umani che sono tra i primi a transitare verso la nuova energia, sperimentando le gioie e le sfide dello stato di ascensione. Essi aiutano altri umani nel loro viaggio attraverso la condivisione, la cura e la guida. Più di 100.000 persone visitano ogni mese il sito web del Crimson Circle per leggere i documenti più recenti e discutere le proprie esperienze. Il Crimson Circle si incontra mensilmente nell'area di Denver, Colorado, dove Tobias presenta le ultime informazioni attraverso Jeffrey Hopp. Tobias dichiara che lui e gli altri del Crimson Council Celeste stanno in realtà canalizzando gli umani. Secondo Tobias, loro stanno leggendo le nostre energie e traducendo le nostre stesse informazioni per poi riportarcele, così che noi possiamo vederle dall'esterno mentre le sperimentiamo dall'interno. Lo Shaud è la parte della canalizzazione in cui Tobias si fa da parte e l'energia degli umani viene canalizzata direttamente da Jeffrey Hopp. Gli incontri del Crimson Circle sono aperti al pubblico, benché siano gradite le prenotazioni. Non c'è nulla a cui associarsi né iscrizioni da pagare. Il Crimson Circle riceve la propria ricchezza attraverso l'amore aperto degli Shaumbra di tutto il mondo. Lo scopo del Crimson Circle e di servire come guide umane e insegnanti per coloro che percorrono il sentiero del risveglio spirituale interiore. Non è una missione evangelica, al contrario, la luce interiore guiderà le persone alla vostra porta, in cerca della vostra cura e compassione. saprete cosa fare e insegnare in quel momento, quando il prezioso e unico essere umano che sta per imbarcarsi nel viaggio del Ponte di Spade verrà da voi. Se stai leggendo queste parole e provi una sensazione di verità e connessione, sei proprio Shaumbra. Sei un insegnante e una guida. Permetti al seme di divinità di sbocciare dentro di te in questo momento e nei tempi a venire. Non sei mai solo, poiché c'è una famiglia intorno al mondo e angeli ne regni intorno a te. Vi preghiamo di distribuire liberamente questo testo in maniera non commerciale e gratuitamente, conservandone l'integrità, comprese queste note. Ogni altro utilizzo deve essere approvato per iscritto da Jeffrey Hope, Golden Colorado. Per i contatti vedere l'apposita pagina sul sito web http://www.crimsoncircle.com. www.crimsoncircle.com. Copyright 2007 Jeffrey Hope Golden Co. 80403.